Ciao, posso darvi del tuo? Grazie. Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. È una marcia insistente. Le battute sono lente. È un'onda tranquilla, ma non è camomilla. Ho una visione. Mi dà una sensazione forte. Cerco di far provare quella sensazione attraverso il mio racconto musicale. Quella visione mi dà la forza di credere che si possano fare cose che nessuno ha mai visto o sentito prima. Nel senso che di solito si pensa che possa esistere solo l'esistito. Perché solitamente la mente è un po' dipendente. Associa al possibile solo un'idea già realizzata e quindi già contenuta in qualche cartella nel reparto della propria memoria. In qualche cartella nel reparto della propria memoria. Di che cazzo hablo? Non riesco a capirmi. Mi sento felicemente trasgressivo nell'ambito che mi compete. Dammi l'acqua che ho sete. C'è un elemento nuovo che trova ingresso. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza. Di che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve che mi scassa. Cerco di far provare quella sensazione attraverso il mio racconto musicale. Oh, grazie, vostra eccellenza, grazie. Anche a marzo non mi rompete il quarzo. C'è un elemento nuovo che trova ingresso. Siamo in tanti e andiamo avanti, tutti insieme siamo giganti. M2O, mica una radio a capocchia. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Thank you.

sabato sera, questo sabato 31 di questo mese qua, marzo 2007, sabato notte, ore 22. Capriolo è un paese in provincia di Brescia e è facile da trovare. Alle ore 22 ci incontriamo lì e la musica è questa qui. Discoteca La Fattoria. Entri, balli e quando chiude te ne vai via, via, via. Firmamento. Del firmamento. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale. Di che cazzo? Domenica pomeriggio, ore 15, ci incontriamo alla discoteca Freak. Non mi ricordo dov'è. Vabbè, comunque trovate tutte le informazioni sul mio sito www.gigidagostino.com. Entrate nel forum, cercate il topic dedicato e capito? '60 cominciava una favola meravigliosa chiamata Beatles, una favola che non finirà mai. Nel 1981 uno dei quattro incantatori raccontava qualcosa. Affascinato da quel racconto, nel settembre del 1981 acquistai il 45 giri di George Harrison per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto, perché certe emozioni avrei voluto portarle sempre con me. Oggi vorrei farvi ascoltare questo favoloso dipinto. I'm shouting all about love, well they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Love, baby, with good or bad, I'll emozionarti. Devi sintonizzarti. Sole, ma

22 anni fa conoscevo te. Non credevo che saresti diventato così importante nella mia vita. Mi sei stato vicino nei momenti difficili. Abbiamo condiviso tanto. Mi hai regalato momenti che rimarranno per sempre dentro di me. Bastardo, ma non troppo. O forse sì, ma nonostante questo, sei davvero speciale. Ed è con questo messaggio che voglio augurarti buon compleanno, vecchiaccio, e dedicarti per sempre. Ti voglio bene, Dendino. Becci. Sono Albicocca del forum gigidagostino.com. Vorrei che mi dedicassi Arcobaleno e dirti che grazie a te ho scoperto quanto può essere bello alzare lo sguardo e osservare il cielo. Tu sei il mio Peter Pan, la tua musica è la mia isola che non c'è. Grazie. Un saluto al nostro amore Peppe, da Steffi, Cinzia e Cetti da Messina. Volevo dedicare semplicemente ad Endo per il suo compleanno, perché è semplicemente immenso. Sì, sì. Grazie di tutto. Ti adoro. Giusy. Il cammino di Gigi D'Agostino, la radio a colori. Vorrei dedicare Ho fatto un sogno alla mia dolce Valentina e dirle che da quando sto con lei sto vivendo il sogno più bello della mia vita. L'amo da impazzire. Andrea da Milano. Gigi Dag, la tua musica è come il sangue che mi pulsa nelle vene, è la linfa vitale nelle mie giornate buie, una carica di energia che mi fa sentire viva ogni volta che l'ascolto. Un saluto a tutti quelli che stanno condividendo con me questo magico momento. Silvia da Mantova. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire. Che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Rosa Albino da Cosenza. del pomeriggio. Suona Gigio. Domenica sera, quella di Pasqua, ci incontriamo a Rimini, presso la discoteca Altro Mondo. Io suono dalle 22 alle 2 e altre storie. Volevamo mandare un saluto speciale a DJ Cappe, che ti ascolta sempre, anche dall'università. Ale ed Edo, da Cantù. Ciao Gigi, volevo dedicare ginnastica mentale al mio amico Giando e a mia sorella Sabrina. Gianluca, da Pavia. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ciao grande Gigi Dag, vorrei dedicare lo sbaglio a Samuela, dicendole che il vero sbaglio è stare molto lontano da lei. Diego.